America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, Mahmoud Abbas, il leader palestinese, Donald Trump si sono riuniti, hanno discusso, parlato a Betlemme subito dopo l'orrendo attacco di Manchester. Sentiamo Donald Trump nella conferenza stampa congiunta. I won't call them monsters because they would like that term. They would think that's a great name. I will call them from now on losers. Because that's what they are, they're losers. Ecco, Trump dice non li chiamerò mostri, perché potrebbe perfino piacergli questo appellativo. D'ora in poi li chiamerò soltanto perdenti, perché è questo quello che sono, dei perdenti. Ecco, Donald Trump ha condannato così l'attacco di ieri notte a Manchester, l'ennesimo attacco all'Occidente, ai suoi valori, ma anche al mondo islamico stesso, che soffre, perché rendiamoci conto che il mondo islamico in generale viene indebolito da attacchi di questo genere. Trump dormiva a Gerusalemme ieri notte quando c'è stato questo attacco, questa esplosione, ma l'America ha seguito per prima la drammatica, orrenda vicenda inglese, un attacco che è stato condotto per mostrare la vitalità di un califfato che sta perdendo territorio a vista d'occhio e che già sa nel suo intimo, perché di questo gli esperti ne sono sicuri, che sarà sconfitto, soprattutto dopo la dichiarazione di guerra senza quartiere giunta dall'Arabia Saudita. Ma intanto reagisce con un comando suicida, imbottito di esplosivi, di chiodi per fare quante più vittime possibili. Ecco, è una reazione diretta questa alla dichiarazione contro gli estremismi non musulmani. Ecco, lo dico tra virgolette, una dichiarazione firmata da oltre 50 paesi islamici e dall'America alla conferenza di Riyadh di domenica scorsa. L'attacco di ieri è stato vigliacco, come sempre sono vigliacchi questi attacchi degli estremismi contro giovani. Persino bambini inermi, di nuovo a un concerto, come capitò a Parigi. Questa volta il concerto era di Ariana Grande, questa volta era Manchester, però ci sono pur sempre 22 morti, 22 vittime sacrificali che sono state la risposta dell'ISIF, del califfato, appunto, all'appello di Trump per l'unità del mondo islamico contro gli estremismi che appartengono al male, non alla religione. Ecco, questo è un punto centrale emerso durante questo viaggio. Questa coalizione di oltre 50 stati ha voluto significare la differenza fra l'estremismo terrorista contro la vita e una religione quale islamica che con l'ebraismo, col cristianesimo, come ha detto Trump e come ha condiviso Abbas, condivide quella radice comune che ci porta ad Abramo. 50 paesi che hanno firmato un documento per forgiare un'alleanza. Ecco, per loro ha parlato Mahmoud Abbas. Sentiamo. Ecco, Abbas, come Trump, ha inviato le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime, al primo ministro inglese, ma poi entrambi i leader sono passati direttamente alla grande sfida in aggiunta alla guerra contro i terrorismi, la sfida per la pace in Medio Oriente, perché insomma non possiamo nascondercelo, l'elemento chiave per spiazzare definitivamente i terroristi è proprio quello, raggiungere un accordo quantomeno che ci porti in avanti fuori dallo stallo in cui ci troviamo. Sentiamo Donald Trump di nuovo. I am committed to trying to achieve a peace agreement between the Israelis and the Palestinians. And I intend to do everything I can to help them. Ecco, Trump dice, e qui di nuovo parla da Betlemme, dunque città simbolo per i palestinesi, simbolo per il cristianesimo. Dice: mi sono impegnato a ottenere un accordo di pace tra Israele e Palestina, farò tutto ciò che è in mio potere per raggiungere questo scopo. Sia Abbas che il primo ministro Netanyahu mi hanno assicurato di voler lavorare per raggiungere questo obiettivo. Io sono impaziente di vedere come si potrà andare avanti per ottenere una pace duratura. Siamo venuti a Betlemme per chiedere addio al mondo, sicurezza, soprattutto tolleranza, la pace, dice ancora Trump, è una scelta che dobbiamo fare ogni giorno, gli Stati Uniti sono qui per facilitare questo dialogo. Facile, difficile, beh, gli osservatori più cinici diranno che è impossibile, perché ci si prova da 50 anni, non si conclude nulla, le posizioni restano distanti. Abbas ha ricordato proprio ieri in questa conferenza stampa che la questione del congelamento degli insediamenti, del rimpatrio dei profughi, del destino di Gerusalemme, sono temi su cui Israele non vuole parlare, ma che per i palestinesi restano temi chiave, e Israele non vuole discutere di questo prima di avere garanzia per il rispetto del suo Stato, della sua sopravvivenza, della sua nazione, cosa che obiettivamente manca da parte non solo dei palestinesi, ma anche per esempio dei sauditi. Ecco, Trump ha detto che non interverrà, che le parti dovranno dialogare direttamente, ha ragione, ma se dopo quello che è successo a Manchester ciascuno non riuscirà a fare un passo indietro, beh, si tornerà allo stallo, se non si penserà a questi 22 giovani europei morti sull'altare delle instabilità medio orientali, se non si penserà a loro per trovare la molla del dialogo, e qui ci si riferisce ovviamente anche a Israele, che per ora ha reagito freddamente addirittura all'idea di andare avanti nel negoziato per la pace, beh, allora vorrà dire che la situazione è davvero impossibile. Se invece già da domani, quando Trump sarà a Roma, dal Papa, quando porterà il messaggio dei due leader che l'America sta cercando di stringere nell'angolo del negoziato, quando dirà a Francesco come e per la religione che si deve fare l'ultimo scatto di reni verso il dialogo, visto che Islam, cristianesimo, ebraismo sono tutte e tre religioni figlie di Abramo, beh, anche Francesco non potrà tirarsi indietro, e se tutti, ma proprio tutti, parteciperanno, beh, allora forse un passo in avanti sarà possibile, forse i 22 giovani di Manchester non saranno morti invano. Per il resto non facciamoci illusioni, anche con la pace e con la sconfitta del califfato gli attentati continueranno, questo dobbiamo metterlo nel conto, anche noi nelle nostre case dovremo combattere questa battaglia contro la paura e per la resistenza. Beh, devo dire, lo abbiamo già fatto, per l'Occidente non è una novità, basta guardare in avanti quando la sconfitta di questi selvaggi sarà definitiva. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, lei da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Donald Trump in questa missione in Medio Oriente sta cercando di gettare dei ponti fra le diverse anime del Medio Oriente. La missione è difficile, questo ponte ancora non l'ha costruito nessuno, speriamo che possa essere costruito adesso. E dunque, di Simon & Garfunkel, una delle canzoni più belle che il duo ha scritto, Bridge Over Troubled Water. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.